בלו טיים. בלו טיים. בלו טיים. Buonasera a tutti da Gil Facchinelli e dal carissimo amico Maurizio Calzavare. Bella serata, sei puntualissimo, sono le 21:46 secondi, in mezzo, meglio di un orologio svizzero stasera. Sì, ho controllato i tempi, ho detto questa sera dobbiamo iniziare perché abbiamo anche questa sera un ospite particolare, un rappresentante di un gruppo che si chiama Caffè Sport Orchestra. Un gruppo composito, un gruppo che ha un po' di storia, non è un gruppo che si è formato adesso, aveva un po' di storia antecedente, un po' interessante, un gruppo che viene dalla Romagna, la terra della musica per antonomasia, cosa dici? Certo, e ce lo faremo spiegare questa sera anche, ti chiederò poi anche un piccolo parere generale su questo genere che fa questo gruppo. Abbiamo con noi comunque Francesco Senni, frontman di questo gruppo. Ciao Francesco. Ciao, buonasera. Buonasera Francesco. Buonasera. Allora Francesco, eccomi. Benvenuto intanto sulle nostre frequenze di Blu Radio Veneto a presentare questo vostro ultimo CD. Abbiamo parecchie cose da dire, dal titolo, dalla vostra musica. Eccolo, ditemi pure, chiedetemi. Un titolo vetmuliano, alla linea Vetmuller. Qualcuno ha scritto uno dei titoli più lunghi della storia del rock. Sì, pare che sia proprio così. È vero. Ma il motivo è molto semplice, perché praticamente è una parte della traccia di Appassionati di questo disco, no? Sì. Ed è una storia che parla di un commerciante di pesce che se ne va a Napoli per comprare un pesce spada, quindi una cosa di routine, una roba facile. Poi arriva là e gli succede tutt'altro. E questa qui è un po' la storia che ha avuto questo disco, insomma, dovevamo trovarsi in studio per registrarlo in poco tempo, e in realtà poi è andata a finire che ci abbiamo messo 5 anni. Ecco, vedi. Allora... sì, sì. Tutte allora, cose comunque, non titolo, anticipare troppo perché poi ne parliamo. Ecco, perfetto. Francesco, però le radici della vostra band, della vostra musica sono molto prima, 2001 all'incirca. Sì, noi praticamente è successo questo. Io gestivo un locale dove facevamo musica dal vivo a Cesenatico, giù in Riviera, e si chiamava Caffè Sport Lambretta. Era un locale perché per 4-5 anni ha funzionato alla grande, facevamo musica dal vivo e oltre ad avere tanti ospiti esterni c'era, diciamo, tutta la scena romagnola che frequentava il locale. Che c'è ancora questo locale? No, il locale non c'è più, adesso c'è una pizzeria, è un'altra cosa proprio. Quella era una vecchia officina ristrutturata praticamente, era un locale post-atomico, diciamo, di quelli che andavano negli anni 90, ecco. E insomma che la scena frequentava molto questo locale, poi a un certo punto, siccome c'erano tanti musicisti che poi erano diventati frequentatori ma anche amici, abbiamo deciso di creare l'orchestra stabile del Caffè Sport Lambretta, no? È una cosa meravigliosa questa, quindi sì, si suonava sempre praticamente. Cioè, in realtà abbiamo cominciato a provare per fare un paio di canzoni, poi abbiamo deciso di registrare il primo disco ed è venuto tutto facilmente da solo, capisci? È stata una cosa magica proprio. Vabbè, bello, come succede in Romagna spesso. Capita cosa magica, da Guccini in poi possiamo dire così. Esattamente. A proposito di Cesenatico, Francesco, se non mi sbaglio, tu hai anche ancora un bel locale lì da quelle parti, no? Io ho avuto fino alla fine dell'estate una friggitoria sulla spiaggia, Cesenatico si chiama Florida, che era un vecchio dancing rivisitato a friggitoria di pesce al cartoccio. Solo che quest'estate hanno deciso che non mi rinnovano il contratto, per cui io al momento sono a piedi e sto cercando un posto nuovo per ricominciare l'attività. Io volevo invitare Maurizio a Cesenatico, invece la tabucca. Ma non è detto, non si sa mai. Le occasioni sono dietro l'angolo, quindi la roba c'è da fare qua al mare, insomma, fortunatamente ancora c'è, dai, quindi... Se non è lì da un'altra parte bisogna che mi sposto, anche perché comunque io non è che posso stare a casa senza fare niente, ecco. Appunto, no. Quindi dal 2001 Francesco hai cominciato, 2001 è stato in giro questo disco in tempo brevissimo, tutto live, un disco che che prende un momento degli anni 50, però con un po' di Cuba. Come mai, Francesco, all'epoca questa Cuba e gli anni 50? Ma perché quell'estate lì mi avevano regalato, mi avevano prestato dei CD di musica cubana, e allora io lì alla Lambretta li mettevo sempre, li ascoltavo, e poi mi sono accorto che praticamente dentro a sto capannone c'aveva il suono del riverbero degli anni 50, lì, no? E allora, siccome avevo queste canzonette, abbiamo deciso di chiamare, oltre ai musicisti che facevano parte un po' del progetto inizialmente, anche un percussionista. E abbiamo avuto ragione, perché alla fine le percussioni hanno fatto sì che il primo album diventasse veramente un disco anni 50, insomma, una roba esotica, super esotica. Tra l'altro l'abbiamo registrato in diretta e su un nastro magnetico, come si faceva. Come si faceva all'epoca, esattamente. Sì, esatto. Per cui doveva essere un giochino, una demo, poi in realtà è stato un disco che è venuto fuori felicemente proprio, ci ha dato un sacco di soddisfazione e tuttora continua a darcene. Senti Francesco, io direi che a questo punto facciamo già ascoltare una canzone e poi entreremo anche poi nel vivo del gruppo. Okay. I vari componenti del gruppo. Ho sempre questa curiosità di questi due titoli un po' così insoliti, comunque simpaticissimi, che probabilmente rispecchia anche la, come si può dire, aiutami il termine, Maurizio. Sì, il modo di fare, di vivere, secondo me, il modo di suonare, molto libero in tutti i sensi. I romagnoli in genere, chi abita, chi vive in quel settore, ha molta voglia di suonare liberamente. Cosa dici, Francesco? Per noi la cosa più importante è la convivialità e lasciare che comunque le cose vadano da sole. Appunto, non ci sono regole, sì, però fino a un certo punto la libertà di suonare e di coinvolgere soprattutto. Certo. È come quando la gente viene in vacanza da noi, no? Che li vogliamo far stare con la pancia piena, mandare a casa pieni, tronfi. Appunto. Senti, allora, il primo brano, la prima traccia che noi facciamo ascoltare questa sera, dagli Oblò delle Lavanderie a Gettoni. Okay. Due parole sul testo. Dagli Oblò delle Lavanderie a Gettoni praticamente sono le riflessioni che fa questo vitellone la sera di Natale, quando si trova da solo davanti al barista a bere, mentre fuori, insomma, viaggia al Natale. Lui la prende un po' così, un po' in maniera disincantata, e poi più continua a bere, più si accorge che comunque alla fine di queste cose ci abbiamo bisogno, riscaldano il cuore. Ecco, bene. Allora ascoltiamo questa prima traccia dei Caffè Sport Orchestra. Pieno e non ho ancora deciso, ma in bocca un miele che è un rimpianto avvelenato, ma è buono, come è buono quel che ha appiccicato, resta dei ricordi da addolcire l'amarezza quando è l'ora dei bilanci, ma non ricordo che il Natale mi è piaciuto, e un'altra volta arriva e suona i campanelli con le mutande rosse, la fila alle casse ed un kimono d'oro, mentre il peso della neve schiaccia il cuore di chi resta da solo. caccia alle parole più azzeccate, per non sembrar banale che a Natale fa malinconia, mentre dal vetro vedo renne a briglia sciolta. Sono pieno e lui è deciso, il tramandato, ma il barista sa tacere perché è mestiere. La notte azzurra è fresca e in mezzo ai botti suona la campana, meglio far finta di niente mentre aspetto la Befana. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Time. Blu Time. Blu Time. Rieccoci ancora con Blu Radio Veneto. Vi ricordo la nostra frequenza 88 e 700 MHz in modulazione di frequenza. Per chi volesse ascoltarci in streaming dal computer, basta andare su www.bluradioveneto.it e cliccare sulla sinistra su quel bottoncino rosso con le cuffie, e lì potete ascoltare in diretta da qualsiasi parte del mondo. Se qualcuno volesse interagire con noi e parlare tramite Facebook con il nostro amico Francesco Senni, Blu Radio Veneto, Blu Radio Veneto Rockway, e lì ci scrivete tutti i messaggi che volete. Francesco, mi senti? Sì, sì, sì. Un critico ha scritto una cosa meravigliosa, ha scritto questo Natale, che è un Natale caldo ma triste come tutti i Natali, può entrare tra il Natale di De Gregori, il Natale fuori corso di Max Manfredi e il grandissimo Natale dei Pogues. Cosa ne dici, Francesco? Ah, cosa devo dire? È un grandissimo onore. Entro nel po' che fa Firefly Tale of New York dei Pogues. Sì, lui, il critico che ha fatto questa intervista e che ha tessuto le nostre lodi è un nostro fan dalla prima ora, per cui lui si è sprecato in questa cosa qui. Io non so se siamo all'altezza. Tra però Natale che sia, sono strepitosi tutti, quindi... Esatto, ma Natale triste sì, ma caldo sì, lo stesso triste sì, perché tutti i Natali sono tristi in genere, ma caldo come sonorità, sembra come... praticamente la California. Sì, come il caldo di luglio. Esatto, come il caldo di luglio. Sì, volevamo fare appunto questo che venisse fuori questa cosa, praticamente la sonorità caldissima, anche un po' cubana. Sì, un po' cubana più che californiana, cubana. Però le tematiche fredde proprio, fredde e tristi. Sì, certo. Una contrapposizione giusta, Dr. Jack e Mr. Hyde. Esatto. Siete un bel gruppo, Francesco, siete in 10, oltre... Sì. Vogliamo ricordare, ce la facciamo ricordare, certo, questi certo. Ragazzi, allora, oltre me c'è Enrico Farnedi, che tra l'altro ha partecipato a Musicultura 2012, esatto, che è quello che fa gli arrangiamenti per il gruppo, suona la tromba, l'ukulele, il flicorno, il glockenspiel pianoforte, insomma un sacco di strumenti. E di Enrico che lo contatterò perché mi interessa portarlo qui a Radio, Radio Veneto. Certo, certo, farò presente. Poi abbiamo un altro genietto che è Paolo Gradari, che è quello che suona, lui è uno degli autori delle canzoni degli Amici in B, che è un gruppo alternativo romagnolo che comunque sta avendo un discreto successo anche in Europa, in Inghilterra soprattutto. E lui suona la tromba, il saxofono, tenore contralto e baritono e il clarinetto. Ecco, perché diciamo, scusa la parentesi Francesco, che questo gruppo proviene anche da varie esperienze abbastanza importanti. Sì, allora, per dire una cosa che ho già detto, praticamente se dovessi parlare di amore, la Caffè Sport Orchestra non è la moglie, è l'amante. Ah, hai capito? Siamo un po' la seconda scelta di tutti, capito? Tutti hanno già dei loro progetti, però ogni tanto ci si ritrova per fare questa cosa qui, perché insomma ci diverte tantissimo farla, ecco, soprattutto suonare in giro. Ma cioè, fra tantissimi strumenti, Francesco, vi abbiamo citato, ma tanti strumenti diversificati, anche il theremin siamo arrivati. Sì, Cristian Canducci, il batterista, suona anche il theremin. Che è uno strumento particolarissimo. Sì, ma lui suona anche la sega. Cioè, ho capito, sì, ho capito. Che fa un po' il suono del theremin, però con un archetto. Lui suona anche la sega, ma è un matto, Cristian. Ma come si fa a fare un pezzo live con tutti questi strumenti, Francesco? Allora, noi per comodità, diciamo che tutto quel che riguarda l'arrangiamento dei fiati riusciamo a riprodurlo dal vivo. La base comunque sono sempre chitarra, basso, pianoforte, percussioni, per cui viene sempre uguale, però è ovvio che col theremin fai fatica a portarti in certo, giro. Certo, certo. Però ad esempio con gli effetti speciali che sono il fischio oppure il richiamo dei passerotti, abbiamo Giuseppe Satanassi, che è il trombonista, che è un fischiatore di prima, e in più Simone Marzocchi, che è anche lui un pazzo, e si è comprato recentemente un richiamino, quello che usano i cacciatori da mettere sotto al palazzo. Ho capito. Vedete? E praticamente sta inventando dei richiami di uccelli che non esistono, capito? Si inventa il nome e il richiamo, praticamente. Perfetto. Un divertimento continuo, Francesco. Continuo, sì, in questo senso assolutamente. E lo spirito è questo. Nonostante i testi sono testi di un certo impegno, però musicalmente vi divertite al 100%, quello sì. Sì, perché sennò non saremmo rimasti insieme 13 anni. Appunto, frasi diverse. Per quello che dà l'orchestra a livello economico, che andare a suonare in giro in 9 è un costo veramente esagerato, quindi le date che facciamo sono veramente poche, però lo facciamo perché ormai è diventata come la confraternita del Leopardo, non so come dire. Abbiamo bisogno di incontrarci ogni tanto e di suonare insieme per divertirci. Ecco. Sbaglio, ne mancano ancora 3. Allora, cioè, perché altrimenti poi il gruppo ti ascolta. Sì, esatto, bravo. C'è cioè, Paolino Marini, che è il percussionista, che è il decano dell'orchestra, è il numero uno. E poi c'è Glauco Salvo, che è il chitarrista, che ha anche la chitarra degli Amici in B, anche lui, di questo gruppo. Il Buzzucchi suona anche Glauco. Suona anche il Buzzucchi, Glauco. Suona anche il Buzzucchi e suona anche l'ud. Ah, l'ud che cos'è? L'ud praticamente è uno strumento a corde nordafricano. Ah, perfetto. Okay. Bisogna sapere ste robe, Francesco, la gente deve saperle. Poco a fa. E poi c'è Max Freschi, che suona il basso elettrico. Satanassi e Pesaresi? Allora, Satanassi è, l'ho citato prima, che è il trombonista, che è quello che fischia, sfuggito, è il fischiatore, è il trombonista. E invece Pesaresi è il contrabbassista che ci ha accompagnato fino all'anno scorso, praticamente. Mm-hmm. Però molte canzoni di questo disco qui le ha suonate lui con contrabbasso. E poi infine un saluto, ma non senza elencare i nomi, la piccola orchestra d'archi. Ecco, la piccola orchestra d'archi, che sono la Cecilia, la Nicoletta, Paolo e la Michela. Ma Francesco, una cosa, erano fans vostri questi qua o li hai conosciuti a mano? Perché nelle biografie c'è scritto che l'orchestra è dovuta anche a clienti e fan del locale di una volta. No, lì diciamo che praticamente, siccome venivano tutti i musicisti della zona, poi alla fine i musicisti quasi tutti hanno frequentato, quelli un po' più avanti, tutti hanno frequentato il conservatorio, perché da noi c'è il conservatorio di Cesena, che è un conservatorio molto importante in Italia, per cui c'è proprio una storia musicale, no? A Cesena, per cui tutti quelli che suonano si conoscono. Tutti frequentavano il locale, per cui si conosceva tutti, e trovare i musicisti che suonassero delle parti non era difficile in quel senso. Benissimo, benissimo. Allora, Francesco, prima del prossimo brano, perché vogliamo fare ascoltare anche tanta musica, volevo una curiosità su questi titoli insoliti. Il primo CD che avete fatto, che poi ne parleremo un attimo, una piccola parentesi, il Chihuahua storico non esiste senza di te. Non ha senso senza te. Non ha senso senza di te. E questo a pensare, e pensare che sono venuto solo per comprare un pesce spada. Come mai questi titoli un po'... strani, insoliti. Allora, il primo praticamente rientra è una frase di una canzone che c'era nel primo disco, che era Il mambo della missionaria del snob, che questa canzone parlava della sua ragazza che era andata in India in missione, ma in realtà lei era una miliardaria, per cui lui gli diceva: ma cosa vai a fare là, che intanto te sei snob, insomma, c'è bisogno che vai in India, stai vicino a me, no? Allora nel secondo verso diceva: il chihuahua piangerà fino a che non tornerai, sai che è un cane inutile ma fa pena in mezzo ai guai, no? Ora il centro storico non ha senso senza te, piange il mezzo, l'hanno aperto al traffico, chissà poi perché. E poi il finale faceva praticamente la sintesi delle due frasi, dicendo: il chihuahua storico non ha senso senza te, piange in mezzo al traffico, chissà poi perché. Era un po' il senso di questa cosa. Mm-hmm. Bene. Bene. Poi ne parleremo, dedicheremo una piccola parentesi, anche perché è stato un lavoro che vi ha portato abbastanza, vi ha fatto conoscere non poco. No, quello è proprio stato veramente un disco fortunato, il Chihuahua storico. E c'è anche Chihuahua Records, è anche l'etichetta, mi pare, da qualche parte. Sì, la Chihuahua Records è la nostra etichetta, che è assolutamente un'etichetta finta. Beh, chiaro. Ce ne fregiamo per fare gli sboroni, ma in realtà poi non esiste, ecco. Beh, serve anche questo, Francesco. Sì, no, per dire, se abbiamo un'etichetta nostra. Allora, prossimo brano, L'inganno, Francesco. È una canzone un po' particolare, ne abbiamo parlato, ha un testo bellissimo, a nostro modo di vedere. Grazie. E mi dicevi fuori diretta che era un po' un brano un po' particolare, che dovevate anche lavorare sulle sonorità. Sì, no, io L'inganno alla fine gliel'ho messo dentro perché il testo funzionava e secondo me anche a livello interpretativo poteva essere, comunque poteva funzionare. In realtà non c'è stato il tempo materiale di mettere giù l'arrangiamento, perché inizialmente l'avevamo pensato come un bolero cubano, quindi ci volevano dei fiati alla Buena Vista Social Club, fai conto, no? Mm-hmm. Avevamo pensato un mondo del genere, poi non c'è stato tempo di farlo perché avevamo fretta di chiudere, visto che ci avevamo messo solamente 5 anni ed eravamo stati svegli, per cui non c'è stato tempo di fare questo arrangiamento, però in realtà poi la canzone funziona lo stesso e quindi gliel'ho messa dentro e sono ben contento, ecco. Allora ascoltiamoci questa canzone. Sei così seria e le parole sono aria, piangi la tua rabbia sul mio viso e questa storia, vuoi le mie parole chiuse nell'indifferenza, che è solo la vergogna di uno sbaglio e di un'assenza. Le gambe corte, ma ti piace raccontarle le bugie che il cuore suggerisce alla tua parte, ma l'amore vero è tutta un'altra cosa, l'hai sempre saputo in fondo e adesso non puoi chieder scusa. Per la tenerezza che hai avuto e le parole che il cuore han scaldato e tutti quei progetti che hai fatto e che hai già dimenticato, però alzarsi dal letto al mattino senza un sogno, una carezza, un pensiero pulito è così triste e pestifero, così banale e preciso. Sorridi tra i singhiozzi mentre accenni una carezza, quanto amore c'è dentro a quel gesto, in me c'è solo insofferenza. So quanto può far male capire come e dove tu hai ingannato, mentre lei implora un tuo gesto sincero, tu rinneghi il passato. Non so se è peggio lasciare o essere lasciati, ma davanti alla tomba dell'amore siamo così impacciati. E mentre muore una parte di noi che vivrà solo in un qualche ricordo, buona fortuna amore mio, buona fortuna mio inganno. Per la tenerezza che hai avuto e le parole che il cuore ha scaldato e tutti quei progetti che hai fatto e che hai già dimenticato. Per alzarsi dal letto al mattino senza un sogno, una carezza, un pensiero pulito è così triste e pestifero, così banale e preciso, così banale e preciso. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Rieccoci qui in diretta Blue Radio Veneto. Allora Maurizio, cosa dici di questa canzone? Sì, un pezzo molto bello anche musicalmente, quasi un tangaccio, Francesco. Sì, ma un tangaccio nel senso positivo del termine, sì, assolutamente. Sì, sì. No, io te l'appoggio in pieno. Ecco, perfetto. No, è un pezzo molto bello, molto sentito, molto sofferto, si udiva, anche se non vi vediamo dal vivo deve essere una cosa molto interessante sentire un pezzo simile, nel sole degli altri pezzi. Certo, ogni tanto ci vuole un momento di riflessione. Esattamente, la malinconia qualche volta deve esserci. In ogni caso musicalmente è ben costruito. Com'è l'idea di questo arrangiamento, Francesco? Di questa canzone qui? Mm. Ah, niente, a me mi è venuto il jingle. Tu avevi detto che hai avuto poco tempo per farlo, dovevate chiudere il disco, però qualche idea l'avevi sicuramente per arrangiarlo. Sì, no, doveva praticamente il canto che senti fatto al pianoforte, sì, doveva essere fatto con la sezione di fiati, con i sassofoni e con le trombe. Che andava benissimo, secondo me. Certo, era proprio il mondo suo. Mm-hmm. Però alla fine siamo riusciti a registrare lì al Florida, nel mio locale, c'era praticamente la stanza era uno stanzone in legno, questo pianoforte, l'abbiamo preso con due panoramici e il suono era caldissimo e andava bene anche così, insomma. Un po' feliniano, Francesco, cosa dici? Tutto. È tutto feliniano, va bene. Sì, possiamo... quello che c'è, soprattutto il nostro modo di lavorare, quelle, capito? Noi andiamo molto a caso. È chiaro. Non è che... Beh, immagina questi 10 ragazzi riuniti dentro questo stanzone, questi 10 ragazzi emiliani, deve essere una festa. Ma Francesco ha detto uno stanzone indegno. Hai detto uno stanzone indegno, insomma. No, in legno. Ah, in legno, ho capito, indegno. No, d'inverno senza riscaldamento è un posto indegno. Esatto, appunto, senza riscaldamento d'inverno è sicuramente indegno. Io ho un bagno al mare, per cui non c'era riscaldamento. Noi avevamo una stufetta, ma poca cosa, insomma. Uh-huh. Per cui, come dici tu, un posto assolutamente indegno. Però, insomma, alla fine riusciamo a scaldarci in ogni modo. Certo, certo. Volevo fare una parentesi su, poi ritorniamo a questo ultimo lavoro che avete fatto, sul, sì, vado ad abbreviare, Chihuahua. Sì. Anche per chi non vi conosce, diciamo, correggimi se sbaglio, ha venduto 700 copie, ha avuto il premio BL come miglior disco d'esordio, il premio che è molto importante come band dell'anno 2005, il premio Recanati, che poi sarebbe l'attuale Musicultura. E poi ferma, non abbiamo vinto il premio Recanati. Partecipato al premio Recanati e una firma poi importante anche per Rai Trade, che era un'etichetta discografica. Sì, esatto. Avevamo dato in licenza praticamente il Chihuahua, che doveva essere distribuito in giro per l'Italia. Certo, quindi questo CD è riuscito come numero di copie a bissare il Chihuahua? No, ancora no, anche perché ne abbiamo vendute molte più di 700, io sono 10 anni che ne vendo delle copie anche ai concerti, quindi è un CD che tuttora funziona, e anche quelli che vengono ai nostri concerti che ci conoscono col secondo album, poi alla fine il primo lo comprano, certo. Perché è un disco che è venuto particolarmente bene, magico, però adesso con questo qui da vedere, va a capire cosa succede. Per fare l'altro abbiamo stampato nel 2002, il contratto di licenza è venuto fuori nel 2005, per cui le cose vanno anche un po' così da sole, non è che... Certo. Va a capire. Chissà mai un giorno magari vi avremo qui in studio per un live e magari faremo ascoltare anche una canzone del Chihuahua. Ah, sarebbe bello, hai voglia. Anche perché fare un live è veramente un effetto straordinario. Sì, live con tutta questa gente, Francesco. Sì, perché alla fine purtroppo ho visto i costi sì. Che hanno quelli che organizzano i concerti anche nei locali, si tende sempre a ridurre, per cui certo. I gruppi suonano sempre in due, in tre. Però te, insomma, quando hai 9 persone, insomma, hai a che fare con 9 persone che ti picchiano, fanno più male di 2 persone che ti picchiano. Sì. Ma in ogni caso, Francesco, qui abbiamo ospitato 13 persone, il 13esimo ero io, quindi, che ero nella Fossa dei Leoni, quindi c'erano 11, erano 12 musicisti che suonavano, tutti strumenti acustici, ma è meraviglioso. Non hai un volume finto dato dall'amplificatore o dalla compressione di un mixer, lì c'è proprio il volume di suono di diverse persone che suonano insieme, è un'altra cosa. Non hai la pacca, hai il volume. Che è un altro andare, insomma. È vero, verissimo. Io ricordo i fiati, sono venuti qua a suonare un po' di anni fa, io ero proprio al centro dei fiati e per un mese ho avuto le orecchie che mi andavano però era meraviglioso lo stesso, molto certo, bello, molto certo, bello. Certo. Senti, passato tantissimo tempo a spizzichi e bocconi, come avete scritto voi, per fare questo lavoro, e avete creato questo CD, con quali prospettive, Francesco? Ma la nostra prospettiva è quella comunque di continuare a dare testimonianza di quello che stiamo facendo, poi in realtà ognuno ha il suo lavoro musicale e non, per cui le cose vanno avanti, credo che la Café Sport Orchestra, credo che questo collettivo continuerà a suonare finché saremo su sto pianeta, insomma, tanti anni che suoniamo insieme. Però la nostra necessità è quella un po' ogni tanto di riuscire a registrare quello che noi abbiamo fatto fino a quel momento lì, capito? E poi ovviamente di vendere i CD ai concerti, ecco, perché certo. Anche sì, è questo importante, perché bisogna pure andare avanti, chiaramente. Certo, poi il CD, i dischi sono veramente una cosa magica, perché sono un po' come i messaggi nelle bottiglie, fanno la loro strada, ci mettono il loro tempo e arrivano a chi devono arrivare. A me ogni tanto mi chiama qualcuno da qualche parte d'Italia, addirittura una ragazza della Germania mi ha mandato un messaggio che ho scritto sul mio sito, questo disco è bellissimo, ma come hai fatto ad averlo, che non c'è neanche più in Italia adesso, Chihuahua, capito? Però lei tramite amici, era riuscito a reperirlo sto disco. Quindi, vedi. È un po' il bello del formato, no? Sì, del porta a porta, del passaggio, esatto, sul passaggio, esatto, sì, era l'artigianato tra virgolette, insomma, è molto positivo, decisamente, cosiddetta etichetta autogestita, questo il mercato autogestito è una cosa molto positiva. Mi dicevi, io tra le righe ho sentito che hai dei pezzi già costruiti che avrete necessità fra un po' di tempo anche di incidere, Francesco. No, noi abbiamo la seconda parte del Pesce Spada, che sono tutte le canzoni che sono rimaste fuori da questo disco. Quelle lì dobbiamo inserirle in un altro disco. In più, in questo momento stiamo registrando il disco nuovo. Ah, però. Quindi siete in continuo movimento, c'è poco da fare. In questo momento sì, prova a capire cosa succede domani, perché qui dipende un po' da come sono messe 9 persone, capito? Già io vedo che faccio fatica con mia moglie in casa a organizzarsi, un po' difficili, no? Essere in tanti, per cui in questo momento fortunatamente ci siamo un po' tutti, per cui tutti riusciamo a collaborare a questa cosa. Allora ecco. Ti strappiamo una promessa, visto che state lavorando al prossimo CD, magari fare un live qui a Blu Radio Veneto. Ma mi piacerebbe un bel po' anche. Scrivo. Abbiamo scritto, Francesco. Sì, segno. Ascolta, ascoltando un po' la vostra musica, io ho notato che avete rubato e mescolato molto sapientemente anche qualche nota rubata al liscio, o mi sbaglio? Oi. Cioè, il liscio per un romagnolo è una cosa, per un musicista romagnolo è una cosa irresistibile. magari uno vuole suonare il jazz e il rock and roll e non, infatti magari non gli viene bene, ma se inizia a fare del liscio, del romagnolo, gli viene bene spontaneamente, per cui noi assolutamente non lo rineghiamo, anzi cerchiamo di osannarlo tutte le volte che possiamo. Ma l'avete veramente fatto un ottimo lavoro, l'avete miscelato molto ma molto bene. Ah, ma ce l'abbiamo, ogni tanto ti scappa fuori, ti viene fuori, è irresistibile, dai. Parliamo di testi un po' in generale. Di cosa parlano complessivamente? Cioè, trattano qualcosa di particolare, magari per dirlo in due parole a chi ancora non ha ascoltato la vostra musica? Ma no, dai, i testi parlano un po' della vita, delle cose che ci circondano, delle sensazioni che hai, delle scelte che si fanno. Nello specifico questo disco qui parla più che altro di quello che ci è passato negli ultimi 5-6 anni, per cui un po' mettere le radici, far famiglia, e tirare un po' in barca, smettere un po' di fare i viaggi che facevamo fino a 10 anni fa, come un po', non dico tirare i remi in barca, però insomma mettere un po' la testa a posto, ecco. Bene. Questo disco parla un po' di queste cose qua. Ascolta. Ah, sì, ok. Sì, volevi chiedere una cosa? No, parliamo dopo, ho un'idea da proporti, Francesco, musicalmente. Pronti? Ecco, allora io passerei ancora un po' di musica, Francesco. Sì. E farei ascoltare La mano ed il sospiro. Ok, sei d'accordo? La mano ed il sospiro. Sì, bene. Certo. Ok. E cosa parlare? Palpita e appiccica la sua ossessione. Nel vuoto dei giorni andati a tagliarsi le vene, lascia solo un sospiro e la mano che a volte non si trattiene. Certo, meglio che preoccuparsi del tempo che fa, di quelle inondazioni, del traffico o della fine dei giorni. Cosa che non credo sarà e cosa che non spero, ma se inciampo in quel sospiro mi fa sentir così vivo. Sospiro in gonnella per bruciare di voglia. Certo, meglio che preoccuparsi del colosso cinese o di quegli immigrati sbagliati, naufragati. Cosa che non credo sarà e cosa che non spero, ma se inciampo in quel sospiro mi fa sentir così vivo. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Qui Maurizio, veramente il tempo vola, io abbiamo 10 minuti e vorrei riuscire a far ascoltare due canzoni, compresa quella del, di chiusura. Francesco, mi senti? Sì. Mi sono senti qua, Francesco? Sono qua, bene. Sono qua. Il pizzico cinematografico, questa, questo alone cinematografico che ondeggia fra tutte le sequenze del disco, cosa ne pensi Francesco? Sì, c'è, perché tanto alla fine... si discute sempre sui testi dei brani, no? Quando li metti giù, quando inizi a suonarlo, per cui ovviamente le parole un po' fanno riferimento al mood e anche il mood sonoro fa riferimento a particolari sensazioni, per cui noi tutti che siamo molto amanti del cinema finiamo per attaccarci a cose che abbiamo visto sullo schermo, per cui è una cosa che ci viene in automatico. In più molti di noi sono appassionati di Morricone, per cui di Nino Rota, insomma. Quindi i grandi esecutori di musica, di costruttori di musica, Morricone, Nino Rota, eccetera. Esatto, quindi. Esatto. Per cui ci viene un po' spontaneo cercare di tirare fuori delle suggestioni, anche perché poi avendo così tanti strumenti puoi farlo. Capito? Certo, una piccola orchestra, per niente si chiama Café Sport Orchestra. L'orchestra non è messa a caso, chiaramente. No, assolutamente. Assolutamente. Anzi, anche internazionalizzato non è messo a caso. Ecco. Ah, certo. E poi il bello che questo pezzo, parlavamo io e Gil, musicalmente è molto bello, molto accattivante, certo. Delicato, che ti avvolge praticamente. Mano e il sospiro? Sì, esattamente. Sì, è un po' questa funzione qua, esatto. Senti, il prossimo album andrà nella stessa direzione dei precedenti? Ma in realtà no, perché ho capito che poi nella vita conta, la cosa che conta più di tutto è la forza di gravità, per cui siccome abbiamo la sala prova al secondo piano e il pianoforte al primo piano, avremmo dovuto portare il pianoforte al secondo piano e il peso era notevole, capito, a fare avanti e indietro questo pianoforte, per cui credo che il pianoforte nel prossimo disco non ci sarà, ci saranno delle gran chitarre. Ecco, quindi è una cosa un po' complicata, a volte si pensa che sia così facile a produrre dei suoni, ma ci vogliono anche delle particolarità per creare questi suoni. Sì, ci vuole anche della forza a portare il pianoforte dal primo al secondo piano tutte le volte. Senti, siete in 10, una curiosità, è la vostra forza essere in 10 oppure a volte vi crea qualche problema nel riuscire a comporre una canzone? Ma no, a livello di composizione no, perché tanto tutti bene o male hanno il senso della misura in quello che facciamo, fortunatamente. Più che altro è difficile trovarsi, ecco. Avere il tempo di ritrovarsi tutti, gli impegni sono svariati, per cui la difficoltà è quella, ma anche perché non si è dei professionisti, non si vive di sola musica, quindi è un po' difficile riuscire a riunire ma tutte no, queste in realtà che non fanno i musicisti nel gruppo siamo solamente in 3, gli altri sono tutti professionisti, ma chi non è professionista deve fare i conti sul fatto che non lo è, chi è professionista quasi sempre è impegnato a suonare, per cui in ogni modo è un po' difficile trovarsi, però quando ci si trova, bene o male, la comune di intenti è quella, per cui riusciamo sempre a trovare una strada veloce anche per fare le cose. E siete sempre rimasti gli stessi? Sì, a parte un paio di persone che negli anni hanno mollato e fanno altre cose. Questo è molto bello. Prima stavamo parlando di cinema, Maurizio. Certo. Quindi adesso l'ho fatto apposta, abbiamo fatto apposta Francesco in parla di cinema, perché c'era qualcosa dedicato al cinema. C'è questa parola, una curiosità. Siete dei volponi, sì. Questa parola francese, qui sang-froid. Esatto. Inizia proprio così, come mai hai messo questa parola? Ma perché l'estate in cui ho scritto quella canzone lì, qualcuno aveva preso sto piglio, non mi ricordo chi dicesse sempre qui sang-froid, come dicono in Francia, che poi non si dice qui sang-froid, però ha preso un po' il via questa cosa nel ristorante dove lavoravo io, poi alla fine ho fatto in modo che entrassi in una canzone, ecco. Bene, allora ascoltiamoci Cinema dei Café Sport Orchestra. c'est un froid, come dicono in Francia, che la verità dove sta non si sa. Depardieu, coi dolori di pancia, proiettano stasera al cinema. Orso biondo ballerino va leggero ed il destino sembra non accorgersi di lui, ma solo perché in fondo gli è simpatico, con quella faccia da tartufo vichingo. Oh mon dieu, un po' d'Italia e un po' di sé, stiamo in fila in mezzo ai mostri per vedere il Depardieu. Il vecchio cinemino è chiuso al caos e adesso c'è la multisala che stasera al 2x3. Muti e rassegnati con i posti innumerati tra consumatori che ridon di popcorn. Così mi chiedo cosa c'è da ridere se tieni un codice a barre sul culo. E mi ricorda ancora dalla cassa la signora a regalarci col sorriso un benvenuti bei burdel. Pulito, rigoroso ed essenziale come una vita spesa male a regalare i sogni a quella gente che come celluloide prende fuoco, ogni scintilla si meraviglia e brucia in fretta quel che ha. Resta poco di quel buon vecchio cinema Gérard. Tutto qua, tutto qua, tutto qua. Maurizio, troppo, troppo bella questa canzone. Sì, è molto bella e per niente ha un certo impatto, Francesco. Dal vivo, come si fa un pezzo simile così avvolgente e così invitante? Ma in realtà, guarda, mi prendete un po' impreparato perché il cinema è proprio una canzone che gliel'abbiamo infilata dentro con i piedi perché... Ah, all'ultimo secondo, insomma. Sì, io avevo praticamente questo jingle al pianoforte, no? Tan, dan, dan, dan, il tema, ce l'avevo al piano... gli abbiamo messo su due chitarre acustiche al volo e poi è arrivato Enrico che ha fatto la magia con quella tromba, con la sordina. Perfetto. Però in realtà ci abbiamo ragionato ben poco a fare quel pezzo lì, guarda, ti dico la verità. Ma è molto, ha un bel impatto musicalmente, io e Gigi siamo subito innamorati di questo pezzo perché avvolge, prende, c'è poco da fare secondo noi. No, ma ce lo dicono tutti. Ecco, bene. Ma lo dicono proprio tutti, quelli che ascoltano questo disco, è il pezzo che bene o male piace più di tutti, insomma. Purtroppo, carissimo Francesco, noi dobbiamo chiudere perché abbiamo un altro live a seguire che tra pochi minuti presenteremo anche. Se ci dai i riferimenti web? Sì, tutto quello che potete sapere su di noi lo trovate sull'indirizzo www.caffesportorchestra.it. Ecco, e per acquistare i vostri CD, oltre che i concerti? Lì è in distribuzione audio, bisogna rivolgersi ai negozi. Ecco, allora, Francesco, noi intanto ti salutiamo, noi chiudiamo con il Walzer degli AD, che sarà l'ultimo brano che mettiamo in programma per questa sera del vostro ultimo lavoro. Blu Radio Veneto, tutta l'equipe di Blu Radio Veneto ti ringrazia della tua partecipazione, dai un grosso saluto alla tutta la band e... come si dice qua in Romagna, presenterò. Ecco, benissimo. Bene. Ricordati che ci hai fatto una promessa. Certo, non mi dimentico assolutamente, anzi vi ringrazio perché siete stati veramente pregevoli. Ecco, io passo la missiva al nostro direttore artistico Alberto Perisco che vi metta in agenda. Ok. Francesco, grazie da Gil Facchinelli. Grazie Francesco. Vi saluto. Da Maurizio Calzavara. E da Maurizio Calzavara. Maurizio. Ciao. Ciao, grazie di tutto. Allora, Maurizio, ricordiamo il live a seguire. Sì, è un nome un po' particolare. Come si pronuncia, ragazzi, il vostro nome? C'è il microfono aperto, puoi pronunciarlo, dai. Brahman. Perfetto, abbiamo capito come si pronuncia. È una cosa molto positiva. Stiamo già scaldando i motori, come si dice, che siamo pronti. Poi ho visto c'è un flauto, c'è un clarinetto, bellissime cose. Bene. E ricordiamo il live anche di domani sera con Agostino. Sì, avremo un musicista ligure. Esattamente, si chiama, adesso te lo dico, non me lo ricordo più. Vabbè, nel frattempo nel nostro sito trovate tutto quanto. Ecco. Voglio ricordarvi che il 27 febbraio non ci saremo io e te assieme Maurizio, perché lasceremo il posto ad Agostino per uno spazio dedicato alla manifestazione canora di Anna Capri. Di Anna Capri, sì, esattamente. Ci sarò io in ogni caso. Ecco, benissimo. Con Agostino. Ecco, e però vi ricordo un appuntamento importante invece per il 26 febbraio, che non ci sarà Alberto Prisco, che voglio ringraziare dello spazio che ci lascia. Alle 22.45 avremo ospite telefonico Daniele Ronda. Esattamente, sempre io e te. È sempre noi due assieme. Ecco. E poi un'ultimissima cosa che voglio ricordare e fare un grandissimo in bocca al lupo alla nostra carissima amica di Blu Radio Veneto, Neve su di lei, che domani sera alle 21 a Genova, a Sestri Ponente, presenterà il suo primo disco, Cerco la bellezza. Ah, benissimo, benissimo. Che anche lei ci ha promesso che sarà presente qui a Blu Radio Veneto per un live. Grazie a tutti, vi saluto, vi lascio con i Caffè Sport Orchestra e il valzer degli addii. Le ballerine danzano nell'ebano, fanno piroette sul velluto, tra la madreperla di quei fior di loto del Carion. Mi faccio scivolare via le cose, aspetto che finisca il valzer degli addii e tutto il male che m'hai fatto in questo incanto evapora. Ma il disincanto non funziona se ti incontro, stai ferma lì nel mio cielo, senza inizio e senza fine, sospesa tra me e ciò che vorrei e che sperla arrivare a capire, mentre ti sto a guardare, che non voglio più stare con te. Mi è impossibile senza di te. La leggerezza ed il trasporto son di chi sa ballare, girando le geometriche severe. E l'impaccio di chi non ha mestiere rende zoppe le figure. E tornare sul tuo passo non mi serve a niente, e non mi serve neanche ricordare che chi nasce ballerino sa far solo quello anche nell'amore. Ma il disincanto non funziona se ti incontro, stai ferma lì nel mio cielo, senza inizio e senza fine, sospesa tra me e ciò che vorrei e che sperla arrivare a capire, mentre ti sto a guardare, che non voglio più stare con te, ma mi è impossibile.